Benvenuti. Oggi diamo un'occhiata più da vicino a un libro sull'intelligenza artificiale. E tu l'hai capita, la AI? Di Walter Mellano. Ce ne sono tanti in giro ultimamente, eh? Decisamente. Un tema caldissimo. E la domanda che ci facciamo è: questo testo che cosa porta di nuovo? Riesce ad avere una sua originalità? L'autore, mi sembra di capire, vuole rendere le AI, comprensibile per tutti. Esatto. Partendo da cose che usiamo sempre, tipo lo smartphone, il navigatore, ma senza magari sapere cosa c'è dietro. Sì, l'approccio mi pare molto pragmatico, molto con i piedi per terra, diciamo. Fa quell'esempio del cambio della gomma, no? Per spiegare l'intelligenza. Ah, sì! Raccontami. Lo usa per dire cosa vuol dire essere intelligenti nel fare qualcosa, sia per noi umani sia potenzialmente per una macchina. È un modo semplice per introdurre il concetto senza paroloni. E poi, ripercorre un po' la storia, che non fa mai male per capire da dove arriviamo. Assolutamente. Parte dagli automi, la cibernetica, poi i sistemi esperti. Ricordi? Negli anni Ottanta? Vagamente. Quelli che dovevano sostituire gli esperti umani. Proprio loro. Programmi molto specifici. E da lì arriva al machine learning, al deep learning, cioè cerca di dare le basi tecniche, ma quelle fondamentali, prima di lanciarsi in discorsi, diciamo, etici o sociali. Prima capire come funziona, poi discutere le implicazioni. Questo mi sembra sensato. E forse è già un pezzo di originalità, no? Dare questo quadro storico e tecnico prima di, come dire, saltare alle conclusioni o alle paure. Poi, nel libro si toccano i concetti chiave, ma senza troppi tecnicismi, mi pare. Sì, cerca di evitare la complessità fine a se stessa. Spiega, per esempio, la differenza tra il nostro linguaggio, quello naturale, pieno di sfumature, ambiguo a volte. Certo. Algoritmi. Mi piace quella frase che hai citato prima. Sono solo algoritmi? Sì. Suona quasi liberatoria. Esatto. Aiuta un po' a togliere quell'aura quasi magica, no? Un algoritmo, alla fine, è una ricetta. Una serie di passi per fare qualcosa. Una ricetta che però oggi, con i dati e la potenza di calcolo che abbiamo, fa cose impensabili fino a poco fa. Appunto. Non è magia, è scala. È la quantità enorme di dati per l'addestramento e, come sottolinea Merlano, la potenza di calcolo mostruosa che abbiamo oggi. Questo è il vero motore. Poi introduce il machine learning. Quello supervisionato, non supervisionato? Proprio così. Supervisionato, ti do tanti esempi con l'etichetta giusta, tipo migliaia di foto di gatti con scritto gatto, e la macchina impara a riconoscerli. Capisco. Non supervisionato, ti do un mucchio di dati senza etichette, e la macchina deve trovare da sola delle strutture e dei pattern nascosti. E poi il reinforcement learning. L'apprendimento per rinforzo. Quello tipo per tentativi ed errori. Esattamente. Come un agente in un videogioco che impara la strategia migliore provando e ricevendo premi o penalità. E il deep learning? E l'AI generativa, che ora è ovunque? Allora, il deep learning lo presenta come un passo avanti del machine learning. Usa le reti neurali, ma con tanti strati, per questo deep, profondo. Cita le CNN. Le convoluzionali, quelle per le immagini, dicevi. Sì, esatto. Ispirate un po' alla nostra corteccia visiva, anche se è un'analogia da prendere con le pinze, eh? E poi arriva all'AI generativa. Spiega i Transformers, l'architettura dietro a molte chatbot famose. Come ChatGPT, per esempio. Certo. E sottolinea come questi sistemi creano testi, immagini, codice, che sembrano nuovi, originali. Ma attenzione! Lo fanno ricombinando pattern che hanno imparato da dataset immensi. Non c'è vera coscienza o creatività umana lì dietro. Ecco, e qui arriviamo ai limiti. E ai rischi. Che il libro, mi pare, non minimizza. No, per niente. Anzi, dedica spazio all'analisi dei rischi. L'autore fa un paragone forte. Dice che l'impatto potenziale è paragonabile a quello dell'era atomica. Caspita. E non parla solo di futuro, ma di problemi di oggi. Le allucinazioni, per esempio, quando la AI inventa di sana pianta informazioni che sembrano vere. Racconta anche un aneddoto personale, vero? Sì, una AI che gli attribuiva un articolo scientifico mai scritto. Poi c'è la concentrazione di potere, economico e tecnologico, in mano a poche grandi aziende. Le questioni sulla proprietà intellettuale. Di chi sono i dati di addestramento? E i contenuti generati? Temi enormi. E ancora, il consumo energetico spaventoso dei data center, l'impatto ambientale e i bias, I pregiudizi. Se addestri l'AI con dati che riflettono i pregiudizi della società, l'AI li impara e li amplifica. Un bel problema. Infine, riflette sul rapporto uomo-macchina. Possiamo fidarci? Cosa vuol dire un'empatia solo simulata? Quindi, tornando alla domanda iniziale, dove sta l'originalità e il valore aggiunto di questo libro in mezzo a tanti altri? Forse proprio in questo equilibrio? Potrebbe essere. Spiegare la tecnologia rendendola accessibile, dare il contesto storico, mostrare cosa fa oggi l'AI, specialmente quella generativa. Ma senza nascondere i problemi, anzi mettendoli ben in luce, in modo critico ma equilibrato. Esatto. Un pacchetto completo, diciamo, per chi vuole capire davvero, oltre i titoli dei giornali, ma magari non ha un background tecnico specifico. Mi sembra una buona sintesi. E guarda anche al futuro, eh? Confronta il nostro cervello, la sua complessità incredibile, con l'AI attuale. Accenna all'intelligenza artificiale generale, l'AGI. L'AI a livello umano, l'ipotetica superintelligenza. Quella. E riporta le preoccupazioni di gente come Hinton, pionieri che ora invitano alla cautela. Ma il punto chiave che ribadisce è la natura dell'AI di oggi. È statistica. Statistica. Cioè? Cioè, è bravissima a trovare correlazioni, pattern, in quantità di dati che per noi sono impensabili. Ma non c'è comprensione vera, non c'è coscienza, non c'è intenzione. È uno strumento potentissimo, ma fondamentalmente inconsapevole. Proprio così. E questo, credo, ci lascia con una riflessione importante, che il libro stimola bene. Se l'AI è questo, cosa significa per noi capirla? Forse significa proprio capire come funziona, cosa può fare, ma soprattutto cosa non può fare, quali sono i suoi limiti intrinseci, più che proiettarci sopra aspettative o paure eccessive. Capire lo strumento per usarlo meglio e con più consapevolezza. Una consapevolezza critica, direi. Un ottimo spunto finale.